Sen smarrito senza un perché, sorrido pensandoti, ed è proprio in quel pensare che non vivo. A volte sai è più semplice far finta di non essere, piuttosto che l'ammettere che in fondo io ho bisogno di te. Ma di colpo è già magia, di colpo ti sento di nuovo mia, ed è proprio nel sentirti che io vivo. No, no, per niente è facile milioni seguire regole. Quando parla il cuore, quando parla il cuore, quando parla il cuore, e se confondono l'immagine, tu dimmi che amore mio, che il tuo cuore batte solo per me. No, no, per niente.